24, la storia. Bentrovati su Mix 24. È il lungo viaggio nella vita di Mao Zedong, il grande timoniere che guida la Cina dal 49 al 76, riprende dalla cosiddetta rivoluzione culturale. È la Cina delle Guardie Rosse, delle epurazioni, della Banda dei Quattro. Un'esperienza tragica, violenta, lunga 10 interminabili anni, che avrà ripercussione anche in Occidente, all'insegna del culto della personalità e delle grandi dittature del XX secolo. Ma questa è anche la storia dei compagni di Mao, i capi del Partito Comunista Cinese come Lin Biao, l'ideologo del culto della personalità e del pensiero di Mao Zedong, colui che per anni è stato il suo delfino, è morto in circostanze misteriose. E poi Chuen Lai, a lungo capo del governo della Repubblica Popolare, Liu Shaoqi, braccio destro del grande timoniere, anche lui estromesso dalla politica alla fine della sua vita. Il presidente Mao è il nostro comandante e noi obbediamo agli ordini supremi del nostro comandante. Dobbiamo ascoltare il nostro leader con molta attenzione. In questo modo la rivoluzione culturale si svilupperà e raggiungerà grandi risultati. Vogliamo sbarazzarci del vecchio pensiero, della vecchia cultura, dei vecchi usi e dei vecchi costumi delle classi sfruttatrici. Liberiamoci della peste! Distruggiamo ogni ostacolo! L'ordine di Lin Biao di distruggere tutto ciò che è vecchio viene ripetuto ad ogni incontro delle Guardie Rosse in tutta la Cina. Inizia la caccia alle streghe. Ce ne parla Liu Qingqing, figlia di Liu Shaqi, e poi lo scrittore Ma Bo. Le Guardie Rosse andavano in giro a confiscare e requisire. I miei fratelli maggiori entrarono nelle Guardie Rosse e allora decisi di entrarci anch'io. A volte andavamo dalla polizia e dicevamo: quella è una famiglia di possidenti terrieri, è gente cattiva, andremo a perquisire e confiscare. A volte capitava che trovavamo letteratura proibita, come rare edizioni del Loto Dorato con copertine in avorio, e allora ci dicevamo: eccoli, abbiamo trovato i libri immondi. Le perquisizioni seguite dalle confische divennero routine, ma non c'era niente di organizzato. Eravamo talmente convinti che lo facevamo e basta. La mia scuola era in un sobborgo, in piena campagna. Noi prendevamo di mira le case dei ricchi proprietari o dei contadini benestanti, saccheggiandole e devastandole. Gli studenti delle scuole medie uccisero quasi tutti i possidenti attorno alla nostra scuola. Il presidente Mao ci insegna che per fare la rivoluzione dobbiamo dipendere solo da noi stessi. Dobbiamo liberare noi stessi, alzarci ed educare noi stessi. Che voi siate insegnanti, rivoluzionari o studenti di Pechino o di qualsiasi altra parte della Cina, quello che vogliamo è distruggere ogni idea borghese e portare in alto il pensiero proletario. In altre parole, il pensiero di Mao Zedong! Evviva il Partito Comunista della Cina! Evviva l'invincibile pensiero di Mao Zedong! Evviva il Partito Comunista della Cina! I leader sapevano benissimo che le Guardie Rosse picchiavano la gente. Ciò nonostante, continuavano a dirci che dovevamo tutti imparare da loro e portar loro rispetto. Sebbene il leader del partito e capo del governo, Chuen Lai, distingua tra distruggere le idee borghesi e distruggere i borghesi, i rivoluzionari vanno meno per il sottile. Nella sola Pechino, nel giro di poche settimane, decine di migliaia di persone vengono aggredite e picchiate selvaggiamente. Molte centinaia muoiono. A raccontarlo il filosofo Shi Yu. Ricordo come fosse ieri un gruppo di studenti molto robusti, tra cui alcuni miei compagni di classe che praticavano arti marziali, saltare addosso al preside della scuola. Alla fine non sembrava più neanche un essere umano. Il suo volto era talmente sfigurato che si faceva difficoltà a riconoscere dove fosse il naso. Uno spettacolo agghiacciante. A vederlo mi si strinse il cuore. Questo era lo spirito alla base della rivoluzione culturale. All'esercito fu detto chiaramente giù le mani. Alla polizia fu ordinato giù le mani. Però lo stesso Mao aggiunse: lasciamo che i giovani commettano i loro errori, che imparino da ciò che sbagliano e si correggano da soli. Non possiamo sempre starli a criticare. Insomma, gli lasciò completamente mano libera. Le manifestazioni giungono al loro culmine quando Mao e Lin Biao si fanno vedere con le fasce delle Guardie Rosse. Anche il primo ministro Chou Enlai, sempre ossequioso nei confronti del leader supremo, si schiera con Mao, ma i generali più anziani si mostrano più critici. La Cina sta lentamente discendendo verso l'inferno. Le vittime di rango superiore vengono umiliate in pubblico durante raduni di massa in uno stadio di calcio. Intorno al collo portano cartelli con i propri nomi cancellati come criminali comuni in attesa dell'esecuzione. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Nella Cina di Mao Zedong la rivoluzione culturale è iniziata. Un anno è un commediografo i cui lavori fanno infuriare Mao e il presidente utilizza la sua avversione verso di lui per liberarsi contemporaneamente del suo protettore, il sindaco di Pechino, Peng Cheng, e dei suoi colleghi che vengono così scaricati e lasciati senza più alcun ruolo. Ma ad essere trattato duramente anche il figlio del futuro capo di Stato Deng Xiaoping, Deng Pufang. Nel 1966 Deng Pufang è uno studente dell'Università di Pechino all'ultimo anno di fisica. Ascoltiamolo. Fui preso e sbattuto in una specie di prigione da alcuni studenti radicali. Pensai che per me sarebbe finito. Mi picchiavano. Le pene corporali erano una pratica comune a quel tempo. E cominciai a pensare che la mia vita era un peso, che sarebbe stato meglio se fosse finita al più presto. Allora decisi di gettarmi dal tetto dell'edificio in cui ero detenuto. All'epoca per me vivere o morire era la stessa cosa. Se fossi rimasto per sempre disabile o fossi morto, non mi importava nulla. Deng Pufang è oggi il simbolo della lotta dei diritti a favore dei disabili. La rivoluzione culturale è un primo tentativo di cambiare la mente delle persone, di spazzare via il vecchio modo di pensare e i comportamenti che ne conseguono. Gli ex possidenti e i capitalisti, con l'epiteto elemento borghese posto sulle loro camicie, vengono costretti a sottoporsi a corsi rieducativi da giovani militanti. Sidney Rittenberg all'epoca è l'unico giornalista americano ad avere accesso alla presenza di Mao. Una delle frasi più note di Mao di quel periodo per giustificare le azioni dei ribelli era: senza distruzione non c'è costruzione. Insomma, prima distruggi e poi sulle ceneri qualcosa di nuovo sorgerà. Ovvero, distruggi e poi si vedrà. Sarebbe dovuto divenire un mondo migliore. In realtà, invece, si trasformò in un inferno. La distruzione fisica messa in atto dalle Guardie Rosse non ha precedenti neanche nella lunga storia della Cina. In tutto il paese, fino al Tibet, i monasteri vengono saccheggiati e rasi al suolo. E se i siti più importanti, come la città proibita, vengono protetti su ordine di Chou Enlai, per tutti gli altri, le truppe maoiste hanno carta bianca. Autunno 1966. La grande rivoluzione culturale proletaria, il tentativo di Mao di mantenere la purezza rivoluzionaria nel suo paese, giunge al suo culmine. Le celebrazioni del Giorno della Nazione, in ottobre, sono le prime da quando è cominciata la rivoluzione culturale. In questo periodo, il libretto rosso diviene un accessorio indispensabile per ogni cinese retto, per le Guardie Rosse e il loro leader. Il volumetto è stato compilato da Lin Biao sulla base di scritti di Mao, sotto forma di massime morali per l'esercito. Il presidente Mao dice che le genti di tutto il mondo dovrebbero avere coraggio e abbandonare la paura di combattere e di affrontare difficoltà. Così avanzeranno onda dopo onda. Allora tutto il mondo apparterrà al popolo e tutti i demoni saranno sconfitti. Il futuro del mondo dovrà essere così. Era la voce di Lin Biao. Per pochi fortunati, il massimo è ottenere il libretto rosso autografato in persona. Per tutti gli altri è un talismano, una sorta di feticcio dello zelo ideologico. All'epoca pensavamo che Mao fosse l'incarnazione della verità e quindi accettavamo senza discutere tutto ciò che egli diceva. Se lui diceva che Tizio era un pessimo individuo, noi credevamo senza dubitare che lo fosse. Era la verità assoluta. Una sua sola parola valeva come 10.000 discorsi di chiunque altro. Tutte le idee contrarie al culto di Mao devono essere distrutte, oltre al confucianesimo e al buddismo, anche fedi estranee come il cristianesimo vengono bandite. In tutto il paese le chiese vengono distrutte, i preti ridotti allo stato laicale e i simboli religiosi oltraggiati. La statua della Vergine Maria viene sostituita da un ritratto di Mao. Non si tratta semplicemente di un culto della personalità. Mao è una nuova religione dalle forme stravaganti e primitive che non disdegna miracoli e superstizioni. Ogni giorno tutti i cinesi, anche i ciechi, i sordi, devono ricercare tra le parole di Mao per ricevere degli insegnamenti. La cerimonia ha anche un nome. Al mattino cerca i consigli, alla sera riferiscili. Ce ne parla Sidney Rittenberg. Tutto era divenuto burocratico, fermo, immobile. Mao se ne rese conto e infatti coniò lo slogan: non c'è niente di peggiore al mondo che un lago stagnante. Senza qualcosa di nuovo di cui occuparsi, non si sarebbe mai ottenuto quell'effetto a valanga di energia popolare e passione che improvvisamente esplose in modo del tutto inaspettato anche per lo stesso Mao. Neppure lui l'aveva lontanamente pianificato. Continuava a ripetere: chi l'avrebbe mai immaginato? Chi se lo sarebbe mai aspettato? Federico Rampini, ma in definitiva, cosa resta del culto di Mao Zedong nella Cina di oggi? Il culto di Mao Zedong, non c'è più il vero Mao, quello che da vivo aveva alimentato uno sfrenato culto della personalità, un regime oppressivo. Aveva scatenato la rivoluzione culturale delle giovani guardie rosse per terrorizzare il paese e avere un controllo ancora più forte. Quel tipo di culto della personalità in cui ci si alzava la mattina in Cina e si pronunciava una specie di preghiera quotidiana col libretto rosso in mano, quello non esiste più. Esistono altre forme, aggiornate, a volte anche molto sottili. Uno è una forma di nostalgia tra i più poveri, che guardano, sbagliando ma con un errore umano, guardano al passato pensando che ai tempi di Mao si stesse meglio, cosa che non è vera, e tuttavia è un modo per rifugiarsi e crearsi un mito consolatorio. L'altro aspetto del mito di Mao che sopravvive è quella figura un po' ossificata, cristallizzata, molto finta, che continua a essere venerata dai capi del partito perché gli fa comodo, perché hanno interesse attraverso quel culto a proclamare una continuità dinastica. In fondo, se loro sono oggi ai vertici del Partito Comunista è perché questa Repubblica Popolare Cinese fu fondata nel 49 da Mao Zedong. Non hanno una legittimità popolare dal basso, non sono stati eletti liberamente in elezioni pluralistiche dagli elettori e quindi la continuità dinastica è importante per legittimare il loro potere. Dall'inizio del 1967 nuovi organi di comando, noti come comitati rivoluzionari, si sostituiscono alle vecchie amministrazioni di partito. I comitati rivoluzionari sono composti da soldati, lavoratori e veterani del partito, la cui fedeltà al maoismo è al di sopra di ogni sospetto. A Pechino l'evento viene segnato da celebrazioni grandiose. Più di 100.000 persone si radunano per una manifestazione nel più grande stadio della città. L'esercito è il principale protagonista. a sottolineare l'importanza di quella cerimonia, viene chiamato a presiedere Chu Enlai. Accanto a lui, la moglie di Mao, Chang Qing, e il numero 4 della nomenclatura cinese, Chen Bo Da. Ascoltiamo Chu Enlai. La cricca controrivoluzionaria capitanata da Peng Jian ha cercato di trasformare Pechino nel loro regno indipendente. Facevano sventolare la bandiera rossa per opporsi alla bandiera rossa. In tutto questo periodo, Chu Enlai lavora fianco a fianco con Jiang Qing. Mao nomina sua moglie vice capo del gruppo della rivoluzione culturale, un gabinetto ultraradicale che di fatto governa la Cina durante i 3 anni in cui avvengono i maggiori sollevamenti. La moglie di Mao gode di uno sconfinato potere e di grande notorietà. Il marito sa che può contare su di lei pienamente. Durante la rivoluzione culturale, il rapporto tra Jiang Qing e il presidente Mao era ottimo. All'epoca, lei era il primo e più importante alleato di Mao. Jiang Qing divenne così importante in primo luogo perché il presidente Mao cominciò a servirsi di lei e poi perché Chu Enlai la secondava in tutto. Jiang Qing non era una persona capace di tenere la bocca chiusa. Se aveva qualcosa da dire, la diceva. Era estrema e molto emotiva. Avete ascoltato il segretario della moglie di Mao. Per tutto il 1967 le purghe di massa avviate da Mao si concentrano sui gradi più alti della leadership del partito. Il vecchio e sanguigno maresciallo Peng Dehuai, a fianco di Mao fin dal 1928, colpevole di aver criticato il presidente sulla strategia del grande balzo in avanti, viene estromesso ed esposto al pubblico ludibrio. Per le guardie rosse che lo accusano, Peng Dehuai è un elemento 3 volte anti, dissipatore, corrotto e burocratico, ma la colpa più grande è di essere sleale verso Mao. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, il gabinetto ultraradicale in cui fa parte anche la moglie di Mao, Jiang Qing, opera un'azione incontrastata di epurazione nei gradi più alti del partito. La prossima vittima è Liu Shaoqi, veterano della lunga marcia. Nell'estate del 67 le guardie rosse convergono verso il parco Yonnanai, protetto da alte mura, dove Liu Shaoqi ha la sua residenza ufficiale. Asserragliate per giorni e giorni, costringono Liu a uscire e affrontare i suoi accusatori. All'umiliazione pubblica di Liu Shaoqi si aggiunge la messa in stato d'accusa dei suoi ex compagni. Alla fine Liu verrà espulso dal partito e messo agli arresti insieme alla moglie. A raccontarlo è la figlia. Chiunque avesse avuto contatti con loro, ad esempio quelli che avevano aiutato mia madre a entrare nel Partito Comunista, vennero tenuti in prigione e permanentemente ammanettati. Per anni per mangiare dovettero inginocchiarsi e tenere la bocca attaccata alla ciotola come se mangiassero da un trogolo. Le guardie rosse, dopo aver prestato fede e il loro servizio, vengono spedite nelle campagne, ma partendo devono prima giurare fedeltà eterna. Presidente Mao, noi ascoltiamo la sua parola con fermezza. Cammineremo senza tentennamenti sul sentiero che lei ha tracciato per noi. Andremo nelle aree rurali per essere rieducati dai poveri e dagli umili contadini. Nella campagna, immersi nel fango, tempereremo i nostri cuori, che sono infinitamente fedeli a lei, fino a farli divenire sempre più rossi. Arrivederci! Che voi possiate crescere nel vasto mondo, che possiate avanzare coraggiosamente lungo il sentiero di luce che il presidente Mao vi ha mostrato. Ma al di là delle parole e della retorica, per molti sarà un brusco risveglio. Ce ne parla il filosofo Xi Liu. Quando Mao Zedong costrinse tutti gli studenti ad andare nelle aree rurali, constatammo con i nostri occhi quanto fosse disgraziata la condizione dei contadini. Una condizione disperata. Fu allora che cominciammo a dubitare dell'efficacia del socialismo e alla fine divenimmo tutti più disillusi. 6 mesi più tardi, Mao finalmente convoca un congresso del partito, il primo dopo 11 anni, per dichiarare che la rivoluzione culturale è finalmente giunta alla sua gloriosa fine. Nella nuova costituzione del partito, Mao nomina Lin Biao come suo più fedele compagno d'armi. un riconoscimento che il presidente non ha mai accordato a nessuno dei suoi colleghi. L'esercito, uscito dalla rivoluzione culturale come la forza politica di punta, viene premiato con posti chiave. Anche Lin Biao assapora il suo trionfo. Il discorso finale di Mao, l'ultimo in pubblico, è pieno di soddisfazione per come è andata. Ho fiducia che il nono congresso sarà baciato dal successo e sarà un grande congresso di unità e vittoria. Dopo quel congresso, Mao otterrà vittorie ancora maggiori e più importanti. Nel 1969 Mao era al culmine del suo potere, riverito anche dalla sinistra di mezzo mondo. In patria era venerato e chi osava mettere in dubbio il suo potere veniva condannato all'oscurità, a diventare insignificante. Tuttavia la sua vittoria era fatua e nel profondo di sé forse lo sapeva. Aveva distrutto il mondo vecchio, ma cosa aveva messo al suo posto? Lo scopo originale di Mao era liberarsi di quelle persone al potere che perseguivano il progetto capitalista. Ma ciò che alla fine avvenne inaspettatamente fu che molta gente si rese conto che alcune cose non andavano bene e prese a dubitare del partito stesso. Nel 1969, tuttavia, la rivoluzione culturale è solo un ricordo. Ogni spontaneità è scomparsa per sempre, persino Mao si è stancato di sentirne parlare. Quei valori cui il grande timoniere diceva di ispirarsi sono ormai parte della vita quotidiana di circa 1 miliardo di persone. L'unica forma culturale accettata sono le opere modello di Yan Qing, la moglie di Mao. Per il resto, scrittori e artisti sono ridotti al silenzio, costretti a produrre opere di propaganda per il regime. La Cina è ormai completamente soffocata dall'ortodossia maoista. Ascoltiamo la voce di un ex militante della rivoluzione culturale. All'epoca, in Cina, viveva poco meno di 1 miliardo di persone. Elementi di tutte queste persone pensavano alla stessa maniera, quella di Mao Zedong. Ma dopo la rivoluzione culturale, ogni individuo cominciò a pensare con la propria testa, a valutare i problemi in forma autonoma. Questo fu il maggior risultato della rivoluzione culturale. Nessuna più adorazione cieca verso nessuno, mai più lunga vita qua, lunga vita là. Federico Rampini, qual è l'eredità della rivoluzione culturale nella Cina di oggi? Io credo che la principale eredità della rivoluzione culturale nella Cina di oggi è la paura del disordine sociale, cioè è un'eredità in negativo come reazione del ricordo di un periodo terrificante. È ben sfruttato del resto questo timore dal regime, una delle ragioni per cui Nell'89 Deng Xiaoping mandò i carri armati contro i giovani che occupavano piazza Tiananmen per chiedere democrazia e che lui presentò quella protesta democratica come un tentativo di rifare la rivoluzione culturale. La rivoluzione culturale ha lasciato dei ricordi atroci perché fu un periodo di violenze scatenate in tutto il paese, ha fatto una quantità di vittime che non conosciamo nemmeno perché è un segreto di Stato. E questo lo ricordano i cinesi? I cinesi non possono ricordare la rivoluzione culturale letteralmente, nel senso che è proibito, è un tema tabù, c'è ancora una censura. Non è possibile conoscere per esempio il numero delle vittime semplicemente perché non bisogna saperlo. E tuttavia naturalmente, quando io ho vissuto in Cina ho intervistato tanti cinesi che conservavano nel loro intimo, nel loro privato, dei ricordi di quella fase, generalmente dei ricordi feroci e allucinanti. Liu, il veterano della lunga marcia, muore in una prigione improvvisata in un remoto capoluogo di provincia dopo che gli sono state negate le cure mediche. Molti sono gli uomini che pagheranno con la vita il dissenso verso Mao. Sia i suoi più stretti collaboratori, ma anche quelli i cui nomi sono sconosciuti. In tutto si stima che in quegli anni muoiano oltre 1 milione di persone. Intanto, verso la fine degli anni 60, si verificano scontri lungo il confine tra l'Unione Sovietica e i russi cominciano a pensare che prima o poi si arrivi alla guerra. La tensione è tale da convincere l'America che potrebbe convenirle la collaborazione con la Cina contro il comune nemico sovietico. E il 21 febbraio del 72 il presidente degli Stati Uniti, Nixon, fa il suo ingresso a Pechino per una visita che cambierà completamente gli equilibri dello scacchiere del mondo. Ce ne parla l'interprete di Mao. Nixon allungò la sua mano mentre scendeva i gradini dell'aereo. Perché lo fece? Perché si ricordava che nel 1954 il segretario di Stato John Foster Dulles aveva rifiutato di stringere la mano a Zhou Enlai. A suo modo, Nixon volle riparare a quella scortesia. Nei tre mesi che precedono l'incontro, Mao è molto malato. A un certo punto c'è chi dubita che egli possa incontrare l'importante ospite americano. Le sue gambe sono talmente fragili da rendergli difficile anche lo stare in piedi, ma è un'occasione troppo importante. Mao Zedong attendeva quel momento da molto tempo. Amava ripetere: possono metterci l'embargo per 10-20 anni, ma non potrà durare per sempre. Quando Nixon arrivò in Cina, fu chiaro che l'embargo americano era fallito. Washington doveva riconoscerci. Gli americani non avevano altra scelta. La visita di Nixon aiutò Mao ad uscire da uno stato di depressione che lo aveva reso molto malato quell'inverno. La malattia non aveva nulla a che fare con le questioni di politica estera, derivava dai vari intrighi e complotti della sua più stretta cerchia. Al centro delle trame vi è il successore, nominato da Mao stesso e per decenni tra i suoi più fedeli seguaci, il ministro della difesa Lin Biao. Nell'estate precedente Mao è giunto alla conclusione che Lin stia cercando di scalzarlo e vuole liberarsene. Tutti coloro che, a fin qui silurato, si sono sempre rimessi alla sua decisione senza resistenza. Lin, invece, non lo accetta. Il 13 settembre 71 fugge e il suo piano è trovare asilo in Russia, ma l'aereo su cui fugge resta senza benzina e si schianta. Mix 24. La storia. Bentornati su Mix 24. Una volta allontanato Lin Biao, al suo posto Mao riabilita Deng Xiaoping. Gli ultraradicali, al cui capo c'è la moglie di Mao, Yan Qing, la prendono male. Deng infatti diventerà il suo più aspro nemico nella lotta per il potere dopo la morte di Mao. E il 1973 Mao appare per l'ultima volta in una delle assemblee più importanti del partito. Ma è troppo debole per stare in piedi. Contrariamente al protocollo abituale, ai delegati viene ordinato di uscire per non assistere al suo declino fisico. Ascoltiamo la sua guardia del corpo. Nella seconda metà del 1974 dissero che aveva un enfisema e una patologia cardiaca. Gli dissero di smettere di fumare. Da principio i suoi assistenti gli tagliavano le sigarette a metà e gliene davano mezza. Ma passato qualche secondo la metà era finita e Mao ne voleva subito un'altra. Voleva smettere, ma non ci riusciva. Nonostante la salute di Mao sia precaria, la sua mente continua a funzionare come sempre. Ma nel 1974 la fine si avvicina. E non solo per Mao, anche per Zhou Enlai, a cui è diagnosticato un cancro. Appena un anno dopo, muore. Il gotha del Partito Comunista Cinese si ritrova per il funerale di Zhou Enlai. Alle 9.57 di mattina dell'8 gennaio 1976, il cuore del compagno Zhou Enlai ha smesso di battere. L'intero partito, l'intero esercito e tutto il popolo piangono profondamente la perdita del nostro premier. Nessuna cerimonia funebre pubblica viene organizzata, ma quando la salma di Zhou Enlai all'imbrunire viene condotta per la cremazione, oltre un milione di persone, avvertite tramite il passaparola, si radunano per le strade di Pechino per tributargli l'ultimo saluto. C'erano dei momenti in cui Mao, per brevi periodi, stava un po' meglio. I dottori allora lo blandivano dicendo: «Presidente, sta migliorando, vivrà ancora a lungo, i suoi anni saranno ancora molti». Alla fine, Mao morì per complicazioni cardiache e polmonari. La sua malattia gli provocava forti dolori, ma non si lamentava mai. Quando un cinese ha dolore, in genere geme e si lamenta: «Oh, madre mia, aiutami!» Ma da Mao non si udì mai una singola parola. 9 settembre 1976, Mao Zedong muore all'età di 83 anni. La sua scomparsa causa nel paese cambiamenti epocali. Quando sentii la notizia, immediatamente pensai: ora saranno guai seri per Jiang Qing. L'intera popolazione cinese, infatti, la odiava immensamente. Li aveva fatti soffrire e loro la detestavano. In breve, Jiang Qing e i suoi alleati vengono arrestati e messi sotto processo. Le riprese del processo vengono trasmesse in tutto il mondo. Durante la guerra, sono stata l'unica compagna donna a seguire Mao Zedong al fronte. E dove mi nascondevo allora? Per Chan Qing sarà la migliore interpretazione della sua carriera, ma non le sarà molto di aiuto. La donna viene condannata a morte, sentenza poi tramutata in ergastolo, e deciderà di suicidarsi in cella. Per la vedova di Liu Shaqi, il verdetto è una sorta di giustizia finale. 10 anni dopo la morte di suo marito, Liu viene riabilitato e le sue ceneri poste a riposare. Federico Rampini, la Cina è riuscita dove la Russia ha fallito, e cioè il passaggio da un'economia di Stato al capitalismo, mantenendo però un assetto istituzionale propriamente comunista. Come è potuto accadere? La Cina è riuscita dove la Russia ha fallito perché ha studiato la Russia. Tutta la storia decisiva degli anni di Deng Xiaoping è proprio in quel percorso originale in cui Deng lancia la Cina in una transizione verso l'economia di mercato, quindi con graduali privatizzazioni, aperture al commercio estero, proprio riscoprendo anche quel talento commerciale capitalistico che nell'antica Cina c'era già stato, e d'altra parte mantenendo con un pugno di ferro il controllo del partito del unico. Partito, ecco. Quindi, sacrificando però i diritti fondamentali della democrazia. Sì, il modello cinese non contempla la democrazia, anche se a parole si considera democratico. Diciamo che è fedele a una certa interpretazione della dottrina di Marx, cioè l'idea che i diritti fondamentali prima di tutto sono diritti di tipo economico e sociale, ed è vero che la Cina ha sollevato dalla miseria centinaia di milioni di persone. È stato un evento inaudito nella storia umana, la velocità del progresso economico che è arrivato ad ampi strati, perché non è stato un arricchimento di una piccola elite, c'è stata una modernizzazione vera che ha diffuso benessere, e tuttavia non ha mai voluto invece diffondere anche i diritti individuali, il diritto di voto, il pluralismo, la libertà di stampa, la libertà di religione. Come avviene la successione al potere all'interno del Partito Comunista Cinese? Intanto bisogna ricordare che il Partito Comunista è rimasto intatto nella sua definizione, nella sua rappresentazione di se stesso, nella continuità storica, e tuttavia ha subito anche una profonda metamorfosi. Ricordo un solo elemento sociale, cioè la base del partito, che sono più di 80 milioni di iscritti. Un tempo era tutta fatta a grande maggioranza operai e contadini, cioè un classico partito comunista. Oggi la maggioranza degli iscritti sono studenti universitari o neolaureati, quindi c'è stata una cooptazione di elite urbane istruite e relativamente benestanti. È un partito molto diverso da quello dell'epoca di Mao. È come se fosse una macchina anche di formazione della classe dirigente? Esattamente, è un partito che rappresenta una notevole macchina di formazione della classe dirigente, di cooptazione di elite. L'ho paragonato altre volte a qualcosa che sta tra l'Opus Dei e l'associazione degli ex alunni dell'Università Harvard negli Stati Uniti, come dire, è anche un luogo dove si fa carriera. Un giovane ambizioso che vuol fare carriera rapidamente in Cina ha interesse a iscriversi al Partito Comunista, però è anche un partito in certo senso meritocratico, quindi non è soltanto basato sulla fedeltà politica, cerca anche di selezionare una tecnocrazia efficiente. Quindi anche nella successione al potere supremo si arriva per meritocrazia? C'è una sorta di meritocrazia che regola la successione al potere. Quelli che arrivano in cima sono passati attraverso una selezione che da un lato è la classica selezione politica che avviene da sempre nei partiti, non soltanto nei partiti unici, ma d'altro lato in genere i leader comunisti cinesi hanno prima governato delle province, delle regioni o delle città, sono stati o sindaci o governatori, hanno dovuto dare anche dei risultati alla popolazione in termini di crescita economica, di benessere, vengono misurati anche su quello. Non ci sono delle elezioni libere in Cina in cui i cittadini possano votare questo o quel leader, e tuttavia nel selezionare i leader il Partito Comunista cerca di misurare la loro capacità di dare dei risultati al paese. Quasi da prendere esempio, sembra. No, ho vissuto per 5 anni in Cina, è un paese affascinante, ma non per questo sono un ammiratore del modello politico, visto anche la falla. Qual è la maggiore falla di questa macchina di cui abbiamo parlato? La persecuzione di qualunque forma di dissenso. Qualunque forma di dissenso, anche quando sembra coincidere con dei problemi che i dirigenti comunisti riconoscono, per esempio l'inquinamento spaventoso in Cina. I dirigenti comunisti dicono che è una delle grandi sfide del loro paese, ma se qualcuno si azzarda a organizzare una protesta ambientalista viene arrestato. Questo è un caso classico. Naturalmente ho visto con i miei occhi cos'è stata la repressione militare delle rivolte dei tibetani nel loro paese. Quindi ho visto tante atrocità. Cina non è un paese di cui ammiro il modello politico, anche se riconosco che dei risultati li ha ottenuti. Federico Rampini, la Cina ha superato l'America come potenza economica. Siamo entrati nel secolo cinese, come tra l'altro lei aveva scritto, previsto nel suo libro. È così? Beh, siamo nel secolo cinese. È una definizione di lungo periodo, in questo senso che va inteso anche il titolo del mio libro. Così come il Novecento è stato il secolo americano, questo sarà un secolo dove la presenza della Cina diventerà sempre più visibile, importante. Lo è già in tante regioni del mondo, basti pensare alla incredibile penetrazione dei cinesi in Africa, un continente che un tempo era stato colonizzato da europei. E tuttavia, questo non significa che la Cina abbia superato l'America nella capacità di esercitare una leadership. Il punto debole della Cina è proprio nel suo sistema politico autoritario e rigido. La Cina, dal punto di vista di alcune statistiche, potrebbe avere già superato il prodotto interno lordo americano, ma non è una fabbrica di idee, non è una fabbrica di sogni, non è capace di sprigionare soft power, egemonia culturale, non è capace tra l'altro di attirare talenti da tutto il resto del mondo con lo stesso vigore e dinamismo con cui lo fa l'America. L'America sente questo sorpasso? L'America sente la sfida cinese, l'ha sentita più forte forse qualche anno fa, adesso siamo in una fase in cui l'economia cinese ha rallentato. Quando si parla di secolo cinese, del resto non bisogna mai dimenticare che nel secolo americano c'è stata anche il 29 la Grande Depressione, cioè un conto è guardare un percorso di ascesa, una traiettoria in salita, in crescita nel lungo periodo, altro è che questo conosca anche degli incidenti di percorso, a volte drammatici e brutali, delle crisi profonde. Quindi la Cina in questo momento è meno forte economicamente come ritmo di sviluppo di quanto era alcuni anni fa, tuttavia la classe dirigente americana sa benissimo che quella è la rivale con cui deve confrontarsi. E allora nel mondo cosa cambia con il secolo cinese? cambia moltissimo, cambia un'intera prospettiva storica, il modo in cui guardiamo la storia del nostro tempo. Perché noi bianchi abbiamo vissuto un periodo relativamente lungo, mezzo millennio, di dominio del pianeta, dominio dell'uomo bianco, che si apre all'epoca delle grandi scoperte, Cristoforo Colombo, Vespucci, e arriva fino al nostro tempo. Ecco, sotto i nostri occhi questo capitolo della storia umana si sta chiudendo. Il pendolo della storia ritorna lentamente dove eravamo 500 anni fa, quando la Cina e l'India erano le due nazioni più avanzate economicamente e persino scientificamente.